9 in punto, la versione di Oscar. Beh, fa molto ridere sentirla chiamare 9 in punto quando inizia alle 9.13, ma naturalmente non mi danno retta e quindi continueremo a chiamare 9 in punto per finta questa trasmissione. No, vabbè, comunque, detto questo, mi scuso anche con l'inizio della trasmissione di ieri perché Tito e Timoteo si festeggiano oggi e quindi mi hanno dato due ceffoni dicendo almeno se fai gli auguri, falli giusti. Vediamo se poi sbaglio qualcos'altro, ora che siamo alle 9.13 e 15 secondi. E iniziamo subito con le parole del Presidente della Repubblica di ieri, parleremo oggi di crescita e taglio oggi la mia introduzione, così mi evito errori e faccio più felici i critici, finché ci sono naturalmente a questo microfono. Cosa ci ha detto ieri il Capo dello Stato? Non possiamo nasconderci il fatto che la ripresa è meno sostenuta che in altri paesi. Si calcola che alla fine del 2012 il PIL avrà recuperato circa la metà della perdita di 7 punti subita nel corso della recessione. Ebbene, noi dobbiamo sapere che è imperativo per l'Italia andare al di là di questi limiti, forzare la crescita oltre queste previsioni che sono troppo inferiori alle nostre esigenze, all'esigenza di un rafforzamento della nostra collocazione nell'economia europea e ancor più mondiale. Allora, forzare la crescita, ci vuole più ambizione. Ieri il Presidente della Repubblica ha pronunciato queste parole oralmente, abbandonando il testo scritto, alzando il capo, guardando dritti negli occhi gli interlocutori politici e imprenditoriali che aveva, perché era la giornata del Comitato Leonardo in cui si presentavano le eccellenze del Made in Italy. Il messaggio è molto chiaro: la politica è bloccata perché dall'anno scorso, da metà dell'anno scorso, è aumentata la conflittualità non solo tra centrodestra e centrosinistra, ma all'interno dei due campi e soprattutto nella maggioranza. Dopo vicende dell'onorevole Fini, abbiamo dovuto aspettare fine anno per la fiducia al governo, poi è scoppiato il caso delle notti di Arcore, siamo tutti appesi a vicende che con l'agenda della crescita niente hanno a che fare. Confindustria ha passato il 2010 a chiedere attenzione per questo, la politica ha guardato altrove, si è anche molto infastidita quando Confindustria ha richiamato questa esigenza, la stessa del Capo dello Stato di ieri. In poche settimane, lo scorso autunno, ha definito 5 dei 6 punti dell'agenda per la crescita insieme a tutti i sindacati e a tutte le banche italiane. La politica continua a fare come se quell'agenda non ci fosse. Pochi interventi chiari, con meno burocrazia, inizio di tagli della spesa corrente e più spazio per abbassare le tasse a lavoro e impresa. Le prospettive della politica di abbassare la spesa non se ne parla proprio. Sono molto d'accordo con chi oggi scrive sul Corriere della Sera che il rischio, per esempio, dei decreti di attuazione del federalismo che si stanno esaminando è quello di far aumentare la spesa corrente e la pressione fiscale, aumentare, non diminuire. Deduco dal fatto che il dibattito oramai sulla patrimoniale si sta elevando di tono dopo gli interventi di Giuliano Amato, di Carlo De Benedetti, di Veltroni sabato scorso. C'è oggi un'intervista molto ampia sul Corriere della Sera di Pellegrino Capaldo che parla oramai di patrimonio immobiliare degli italiani da colpire. Noi andiamo verso un paese che non capisce che si cresce con meno spese e meno tasse e pensa invece di aggiungere a quelle che ci sono anche un bel salasso patrimoniale. Questa è la mia previsione. Vedremo invece che cosa succede negli altri paesi prima di interrogarci su che cosa si può fare in Italia, e io comincerei proprio dall'esempio tedesco, un esempio per farvi riflettere, perché pochi giorni fa la Corte Costituzionale di un Land, Nordrhein-Westfalia, che cosa ha fatto? Ha praticamente accolto un'impugnativa verso chi diceva che il bilancio approvato dalla maggioranza rosso-verde, da SPD e Grünen, non era in linea col precetto costituzionale. Ricordo a tutti che la Costituzione tedesca ha un vincolo all'azzeramento praticamente del deficit, perché si tratta dello 0,35% del PIL annuale. Questo vincolo vale a fine 2015, dal 2016 per il livello federale, ed è lo stesso vincolo che vale per i Länder, per i poteri decentrati dal 2020, se non che la Corte Costituzionale tedesca ha detto sì, giusto, e quindi l'eccessiva propensione al debito mi fa fare una diffida per i bilanci locali. Ora, un giudice che decide questo, capite, in Germania li vedete i giudici italiani che decidono qualche cosa di simile? Facciamocelo spiegare dal nostro carissimo amico e spesso critico motivato dell'Italia, Tobias Piller, che è il corrispondente della Frankfurt Allgemeine qua in Italia e conosce bene i nostri difetti oltre ai pregi del suo paese. Buongiorno Piller, come è successa questa storia? Buongiorno. La storia è abbastanza semplice, che il governo di questo land, Nordrhein-Westfalia, ha cercato di fare un finanziario supplementare per il 2010, aumentando molto l'indebitamento. Si tratta di 9 miliardi di euro e questo, a secondo del punto di vista dell'opposizione o di quelli che anche guardano le regole del gioco, era il doppio di quello che era permesso. E allora la Corte Costituzionale di questo land ha detto che questa finanziaria supplementare non era legittima e ha messo fuori gioco questa finanziaria. Così, allora il governo ha ancora abbastanza soldi per pagare stipendi, ma per gli extra deve adesso organizzarsi in modo diverso. Oh, questa naturalmente è una decisione che fa precedente, cioè vale per tutti i land e vale anche un giorno che a livello federale una maggioranza politica dovesse pensare di aggirare il vincolo costituzionale, è così? E certamente il vincolo costituzionale che è stato introdotto come una delle ultime, delle pochissime cose buone della grande coalizione nel 2009, certamente vale dal 2016 per il governo federale e poi dal 2020 tutti i lender devono avere deficit zero. Ma ci sono anche un po' delle scappatoie, certamente se c'è una catastrofe naturale o se c'è una grave crisi finanziaria si può andare oltre. Certamente l'idea non è di essere super rigidi in assoluto e mai poter spendere un euro in più. L'idea di base è che negli anni buoni, quando non ci sono scuse, che non si può andare a indebitarsi perché questo è qualcosa che si lascia poi solo al futuro. Mentre negli anni di difficoltà si potrebbe anche avere un deficit. Oh, in Germania, ricordiamo, la spesa pubblica era molto più elevata anni fa, eh? Ricordaci di quanti punti di PIL e di quanti punti di PIL è scesa la spesa pubblica e la pressione fiscale. E la domanda che molte si fanno, quando in Italia si fa l'esempio della Germania, lo ha fatto la Germania ponendosi un vincolo costituzionale alla spesa e con un'interpretazione anche in quel caso della Corte Costituzionale molto stringente su la capacità contributiva e quindi spingendo la politica a diminuire la pressione fiscale. Ma molti si chiedono, ma noi non siamo la Germania. La domanda, è stato possibile ridurre di quanti punti la spesa pubblica e la pressione fiscale, riducendo forse il welfare e i servizi? Cosa è successo in Germania? I punti esatti, caro Oscar, li sai meglio te, così sono stato ridotto di vari punti, ma la storia dietro è quella che è stata ristrutturata anche alla spesa. Certamente ci sono situazioni dove i tedeschi non sono molto poveri, c'è tanto che si vedeva anche come lusso. C'è in quel senso una rete di sostegno anche per chi è in difficoltà, per disoccupati, ma per disoccupati adesso non si paga più per 4 anni solo, per 12 mesi per i giovani, 18 mesi per quelli più anziani, e poi non c'è più niente che possa reggere. Non è così che poi per la grande industria c'è qualcosa di straordinario firmato da un ministro, non c'è niente, fine. Poi dopodiché uno deve mangiarsi le proprie riserve e se uno dovesse avere proprio più niente c'è di nuovo lo Stato che aiuta. Per esempio, questo è stato un taglio fortissimo nella rete sociale che è stato introdotto. Ci sono stati anche dei tagli nella paga dei dipendenti pubblici, perché si è detto mentre altri perdono il lavoro, voi dovete anche dare il vostro contributo, allora tredicesimi via. Non ci sono più. Per esempio ci sono state delle piene ristrutturazioni di interi settori dell'amministrazione. Faccio un esempio banale, la Baviera aveva l'amministrazione delle foreste e quella dell'agricoltura, 180 uffici in questo land della Baviera, di tutti questi si sono fatti 80 e all'inizio pagando per i traslochi, per chi doveva fare il pendolare per una tratta più lunga, ma dopo pochi anni ci si comincia a risparmiare. Ecco, per la precisione, la spesa pubblica tedesca era arrivata quasi a sfiorare il 58%, ma questo parecchi anni fa, il 57% del PIL, ed è riuscita a scendere con questa adozione progressiva nel tempo, con questi pacchetti di riforme che poi sono stati tutti gli anni dal 2001 in avanti della storia tedesca, è riuscita a scendere al 49 e poi sotto il 49% del PIL, quindi sono tra gli 8 e i 9 punti recuperati di spesa pubblica in meno e per l'80% traslati in pressione fiscale in meno. Allora, la Germania ce l'ha fatta, certo, rivedendo i propri principi organizzativi, tagliando l'organizzazione pubblica dove era necessario, l'esempio che abbiamo sentito, anche reimmaginando il proprio welfare, ma senza buttare la gente sul lastrico. Si può scendere di 7, 8, 9 punti di spesa corrente e di pressione fiscale quando c'è un intero sistema che coopera. Certo, c'è stato bisogno di un governo anche di grande coalizione per addossarsi insieme delle responsabilità delicate, i pacchetti Hartz, ve li ricordate, con cui si sono riviste le cose del welfare. Però, insomma, la Germania è lì a dirci che con regole proprie, non solo imposte dall'Europa, aggiuntive rispetto a quelle dell'Europa, si fa di più, si fa meglio e si cresce del 3,6, del 3,8%. E questo è l'esempio, insieme alla grande forza della manifattura ristrutturata con contratti aziendali negli anni prima della crisi, contratti aziendali che in Italia fanno molto litigare, questi sono i due pilastri essenziali della crescita tedesca che sta lì a guidare l'intera Europa e a interrogarci sul perché noi non troviamo un politico che dica più spesa, meno spesa pubblica e meno tasse, perché tutti parlano nella migliore dei casi dell'invarianza del perimetro, che in Italia significa solo una cosa: più tasse e più spesa. Io mi auguro che ora che inizia il discorso, l'intervento del ministro Tremonti e poi quello di Befera, il capo dell'Agenzia delle Entrate al Telefisco, il Sole 24 Ore, sentiremo dire che ci sono diminuzioni di pressione, ma in realtà non è così, perché la politica non se la sente e non fa altro che ripetervi che le quattro grandi voci della spesa pubblica italiana, cioè i dipendenti, cioè le pensioni, cioè essenzialmente la sanità e altri servizi pubblici, e poi la quarta è ovviamente i 5 punti rotti di PIL che se ne vanno in interessi, praticamente sono incompatibili. Non è vero, perché in tutto quello che riguarda le piante organiche dei 4 milioni di dipendenti pubblici, interi settori della pubblica amministrazione possono essere, restando pubblici, vigilati da principi pubblici, sorvegliati da autorità di settore, banditi e ceduti anche a privati che si ereditano all'inizio le piante organiche senza buttare nessuno per strada, solo che a quel punto troveremo l'Italia invasa da gente che preferisce il contratto pubblico. Sapete meglio di me perché preferisce il contratto pubblico. Non ce l'ho con i dipendenti pubblici, ma quando il dipendente sente parlare di contratto privato dice: perdo dei diritti. I diritti sono che cosa? Migliore efficienza? Sì, soprattutto quello. Perdonatemi, soprattutto quello. Non è vero che non si può rivedere energicamente il perimetro della spesa pubblica italiana. Chi lo dice predica una crescita piatta e vi verrà a chiedere i soldi in tasca. Diranno, inizieranno a dire, dopo averci spiegato che la grande forza dell'Italia è il patrimonio degli italiani, il risparmio degli italiani, ce lo hanno ripetuto in questi anni dicendo che eravamo meglio degli altri, e ora iniziano a dirci: infatti veniamo a casa vostra a prendervelo. Bene, vi fidete a voi? Io non mi fido, perché dopo che ci prendono con la patrimoniale 20-30 punti di PIL e il debito pubblico diminuisce, se non c'è un quadro altrettanto preciso di quello tedesco pluriennale per abbassare spesa pubblica e pressione fiscale, significa solo che i politici saranno ancora più liberi di riprendere a fare deficit da subito. Io non mi fido, e a quel punto mi leveranno il microfono perché mi arrestano, credo. Però sentiamo invece che cosa capita nell'altro grande paese che, con scelte molto diverse, situazioni molto diverse, perché c'era un enorme deficit pubblico superiore all'11% del PIL per il salvataggio del sistema finanziario e bancario. Poi sì, il governo Cameron-Clegg adotta una mega manovra pluriennale di taglio, anche lì del deficit di ben 9 punti di PIL, sto parlando del Regno Unito, e però incredibilmente, mentre tutti dicevano adesso la crescita va giù, la crescita britannica era sopra il 2%, e quindi faceva sperare molti, perché dimostrava che si può crescere anche con forti di riduzioni del deficit. Quindi i keynesiani erano un po' scontenti e allibiti. E invece qual è il dato? Che nell'ultimo trimestre del 2010, il dato si è avuto ieri, ha battuto i mercati, la crescita congiunturale, cioè sul trimestre precedente del quarto trimestre 2010, britannica, ha deluso molti, perché rispetto allo 0,7% in un trimestre del terzo è sceso dello 0,5%. Abbiamo al telefono con noi Marco Niada, che è l'ex corrispondente del Sole 24 Ore da Londra e ora è consulente di società di pubbliche relazioni alla City, e quindi continua a vivere e operare da lì. Marco Niada, buongiorno. Ma che cosa è successo in questo meno 0,5%? Significa che tagliare il deficit in momenti difficili abbatte la crescita, e quindi hanno un po' ragione i keynesiani, o ci sono fenomeni congiunturali diversi? Ma diciamo che il dato è stato scioccante. I media non hanno fatto che parlarne tutto ieri, ma ancora stamattina c'è stata una coda. È stato definito orrendo addirittura da alcuni economisti, perché al peggio ci si aspettava una crescita tra lo 0,2 e lo 0,6% trimestrale, mentre il dato è stato meno 0,5, quindi un divario enorme. Allora, questo calo è stato ascritto in gran parte al cattivo tempo, qui c'è stato quasi un mese di neve che ha paralizzato completamente l'attività economica. Londra è come Roma, basta 5 centimetri di neve che viene paralizzata completamente perché non è abituata al cattivo tempo, e specialmente alla neve, e questo è un fatto. Però al netto della neve, al netto di tutti i problemi che questo ha creato in termini di trasporti eccetera, gli economisti hanno convenuto che comunque la crescita non avrebbe fatto meglio di zero, e quindi questo significa che comunque le cose non andavano bene. Va detto che il programma di tagli di Cameron è partito ma non è ancora entrato nel vivo, per cui non si può neanche dire che è stato il programma di tagli della coalizione Cameron-Clegg avere portato questo. Quindi la cosa, diciamo, ancora più preoccupante, nel senso che l'economia britannica in modo endogeno ha iniziato a perdere colpi, e quindi di più la domanda che viene posta è dire: beh, adesso che inizieranno a tagliare dipendenti pubblici, adesso che inizierà alcuna gente, ma molti dipendenti pubblici ad andare a casa, riuscirà il settore privato, le piccole e medie imprese ad assorbire questa legione di persone che se ne va? E qui parte un enorme dibattito. Da un lato, diciamo, ce l'ha la dura a destra dei conservatori, che dice: noi in questa legislatura, quindi entro 4 anni, dobbiamo ridurre, azzerare il deficit che avevamo creato, riportarlo attorno al 3% dal 9% che adesso è del PIL. Altri dicono, e questa era la linea laburista, bisogna dimezzarlo. Certi, come Ed Balls, che adesso è diventato cancelliere ombra dello scacchiere da quando si è dimesso Alan Johnson 3 giorni fa. Ed Boss, ricordiamo, era braccio destro di Gordon Brown per 13 anni, addirittura dice sarebbe una follia iniziare ancora a parlare di tagliare il deficit prima ancora di non essere certi che in questo paese ci sia crescita. Ultima, non possiamo certo dire ciliegina sulla torta, ma forse l'ultimo chiodo nella barra l'ha dato ieri notte il governatore della Banca d'Inghilterra, Mervyn King, che in un discorso piuttosto lugubre ha detto che questo paese deve prepararsi a un impoverimento collettivo, nel senso che quest'anno, per il quinto anno, i salari reali, e qui mi riaggancio a quello che sentivo e parlavate prima di Germania, eccetera, i salari reali del paese scenderanno. Quest'anno l'inflazione è destinata a toccare il 5%, le paghe dei dipendenti pubblici sono state congelate, le paghe del settore privato anche sono congelate, per cui sono tempi estremamente agri per tutti quelli che sono salariati, perché sono condannati a vedere il loro potere d'acquisto ridimensionato. Va però poi detto, con questo concludo, ad esempio oggi il capo economista dell'OCSE, che si occupa poi di temi britannici, che diceva: alla fine però la scelta del governo Cameron di mandare un segnale forte e dire qualsiasi cosa succeda noi siamo determinati a troncare questo deficit che altrimenti è destinato a dare alle stelle, è un ottimo segnale, perché fa soffrire a breve termine, ma tra il medio e il lungo è l'unica ricetta per far ripartire un'economia che altrimenti sarebbe sepolta talmente da un mare di debiti che non sarebbe più in grado di ripartire. Esattamente, io ringrazio Marco Neda perché con questa sua conclusione ci riporta poi da dove dobbiamo ripartire. È esattamente questa sofferenza, chiamiamola così, nel breve, per i tagli del deficit a maggior ragione dovuto in un paese che ha il debito pubblico al 118%, ciò che la politica italiana non sa sobbarcarsi. Destra e sinistra sono in questo unite, perché di fronte alle proteste dei consensi organizzati per nicchia di improduttività e inefficienza, perché questo significa l'elevato livello di intermediazione pubblico del reddito nazionale, di fronte alle proteste di chi verrebbe colpito, non c'è guadagno e vantaggio nel medio e lungo periodo che gli altri paesi con loro esempio ci dimostrano, ridefinendo il perimetro della spesa pubblica, che convinca un sano politico italiano non solo a prendere i voti dicendo abbasso la spesa e le tasse, perché questo lo fanno molti da 16 anni. Il problema è che poi non lo fanno in concreto, perché la protesta fa paura. E quindi quando il Presidente della Repubblica vi dice alzate la testa, abbiamo più ambizione, non parla solo alla politica, cari ascoltatori, parla innanzitutto a voi, a ciascuno di noi dal basso, che nella realtà le nicchie di improduttività e inefficienza le difendiamo spesso con le unghie e con i denti. Pubblicità. Eccoci allora, abbiamo considerato l'esempio tedesco dove i giudici costituzionali bloccano i politici, gli levano di mano i bilanci che non rispettano il programma TAP di avvicinamento all'azzeramento del deficit previsto e imposto dalla Costituzione. I giudici costituzionali lì intervengono su questo. Che bello vedere dei giudici che dicono politici non fate i deficit, e da noi i giudici politici si occupano di altro. E abbiamo visto il caso dell'esempio britannico, un paese che per via delle esposizioni debitorie del suo sistema finanziario e bancario e per i massicci interventi che ha dovuto organizzare ha visto il deficit esplodere, arrivare a più dell'11% del PIL, un governo poi di coalizione dire dobbiamo tagliarlo di 9 punti in più anni, e il paese cresceva bene, aveva sorpreso molto nel 2010, l'ultimo trimestre invece ha raggelato un po' tutti, però anche lì avete sentito parlare di decisioni dure, pesanti, ci sono 500.000 di dipendenti pubblici che usciranno dal perimetro, ci sono gli stipendi pubblici e privati congelati, e il governatore ha appena detto ieri ai cittadini guardate che nel livello reale c'è qualche anno ancora da tirare la cinghia. Ecco, nel nostro paese il Presidente della Repubblica dice a tutti più ambizioni, sappiamo tutti che cosa bisogna fare per la crescita, il problema è farlo. Io ricordo a chi è in ascolto che siamo da 15 anni che l'aumento del nostro PIL è di un punto inferiore alla media dell'area euro, e 15 anni significa, questo è il Centro Studi Confindustria che ha fatto il calcolo, che oggi il nostro PIL se avesse tenuto invece la media europea sarebbe di 235 miliardi di euro superiori, che significa che per gli italiani in media ci sarebbero 315 euro al mese in più in busta paga, per fare il conto delle mancate decisioni, soprattutto nella sfera pubblica, questa è la mia opinione, assunte per crescere di più. Allora, con Giacomo Vaciago e Tobias Piller, che poi ci aiuterà col punto di vista di un tedesco che vive in Italia a capire, chiedo al professor Vaciago, ringraziandolo per essere qui, l'appello del capo dello Stato al netto di quello che la politica può fare o meno, parliamo invece di quello che dovrebbe fare se potesse. Dal suo punto di vista, professor Vaciago, considerato quello che sta succedendo in Europa, il problema che c'è ancora di patrimonializzare le banche, diamo per scontato questo, ma secondo lei la ricetta di aggiungere crescita a breve, di output potenziale, in che cosa soprattutto potrebbe realisticamente concentrarsi? Beh, mi rendo conto che parlare di Marchionne non è molto di moda, però la sua ricetta per la Fiat è l'unica utile al paese. Molti investimenti in innovazione e lavorare di più e meglio. Beh, non c'è altro da fare. Come ottenere ciò è il vero problema politico del paese, ma la ricetta è quella e i miei studenti la sanno da sempre. Si cresce con gli investimenti in innovazione e migliorando e aumentando la quantità del lavoro che si fa, ma non 4.000 dipendenti della Fiat a Torino, 25 milioni di italiani, cioè tante sono le forze lavoro. Attenzione che siamo il paese al mondo dove ci sono più giovani disoccupati, più giovani donne disoccupate, e non c'è crescita se la gente va a spasso. Naturalmente, come li facciamo di far diventare occupabili? Ci vuole un massiccio investimento. Io ricordo che l'Angela Merkel vince le elezioni, aumenta di 3 punti l'IVA per favorire trasferimenti alle industrie che investono. Beh, e noi cosa aspettiamo? La ricetta è quella. Oh, Marchionne non è un americano, ha lavorato ed è cresciuto nella chimica svizzera, che è la roba più tedesca che io conosca. E questa è la ricetta. Oh, per inciso, la Merkel è andata a tirare le orecchie a Barroso e vuole che mettiamo tutti in Costituzione il Schuldenbremse, cioè il divieto al debito pubblico. Non che ce l'ha solo lei e così poi ha le mani legate per aiutare noi. Dobbiamo metterlo anche noi. Questa è la sua ultima richiesta. E io credo che sia una buona richiesta. In Italia tutti fanno finta di non saperlo. Non so come la pensa lei. Io faccio campagna gratis per questa richiesta della Merkel. Iniziarono gli svizzeri col Schuldenbremse, lo svizzero è un dialetto tedesco, e poi nel 2009 la Merkel lo mise in Costituzione, anche lei, Schuldenbremse è il divieto al debito pubblico. Negli anni normali lo Stato spende i soldi dei cittadini, non un euro di più. Beh, è anche l'unico modo per cui ne risponde poi politicamente. Se può fare debito senza limiti, spende i soldi dei figli nostri, e questo non sta bene. Se non è una tragedia cui devi provvedere, ma diciamo negli anni normali il debito pubblico non ci deve essere. Lo facciamo per guerre, lo facciamo per tragedie, ma non lo facciamo per spendere i soldi dei nostri figli. Allora, iniziamo a sentire alcuni ascoltatori. Molti mi dicono naturalmente che da noi la spesa pubblica è vero che è incomprimibile perché non è giusto toccare nulla. E con questo criterio però, vedete, se nei paesi non è mai possibile ridiscutere nulla, perché voi siete davvero convinti che del 52,5% del PIL la spesa pubblica, leviamoci 5 punti di interessi, va bene, resta un quasi 48% di PIL di spesa pubblica, niente si possa toccare, la mia opinione è che non avete proprio molto bene l'idea di come funziona l'organizzazione pubblica italiana. Questa è però è la mia opinione, non siete tenuti a condividerla. Sentiamo alcuni ascoltatori, cominciamo con Anna da Bergamo. Che ne pensa Anna? Buongiorno, a me ha molto molto colpito il resoconto di Pilla per la modalità apparentemente semplice con cui si potrebbero fare le cose qualora ci fosse un governo che ha un minimo di credibilità, perché il fatto di promuovere dei tagli con l'idea che tutti devono fare dei sacrifici funziona solamente se chi te lo dice ha un minimo di autorevolezza, cosa che purtroppo da noi mi pare non ci sia. Grazie Anna, è un po' difficile dare torto almeno dal mio punto di vista. Lì addirittura poi per anni hanno sperimentato una problematica coabitazione, una grande coalizione, però insomma si sono assunti le loro responsabilità di classe dirigente, e per parti dell'SPD è stata tosta, soprattutto tutti i pacchetti delle riforme del welfare si sono spaccati, sono andati voti in uscita a sinistra di Linke, la sinistra antagonista, eppure loro sono rimasti a prendere queste decisioni. Come vedete ce n'è anche per l'opposizione, perché fare queste scelte significa mettere in conto che poi a sinistra si crea molto malcontento, e qui invece si tenta sempre di fare catch all parties, cioè quelli che prendono tutto, centro, destra, sinistra. Ok. Renato che ci chiama da Napoli, come la pensa Renato? Io dico da dove prendere i soldi, forse una risorsa potrebbe essere tassare in modo abbastanza significativo le pensioni di anzianità che superano i 2.500-3.000 euro, in modo chiaramente scalare, voglio dire, 3.000 saranno tassati di un nuovo 10%, 8%, magari 4.000 di un 15%, in modo che almeno si potrebbe cercare di dare un modo più equo, si potrebbe garantire in Italia le pensioni anche a chi verrà dopo, si potrebbe trovare risorse per la ricerca. Io non so adesso i numeri, quante sono le pensioni che superano questi, però sono proprio pochissime. Però Renato, tu poni una questione che è quella di interventi anche nel riequilibrio dei conti intergenerazionali rispetto a chi prima della riforma, quando entrerà pienamente a regime dal sistema retributivo a quello contributivo, cioè la Dini, era uno che rispetto alle regole attuali, tra virgolette, un privilegiato. Devo dirti la verità, non si fa molto, cioè non è che si recupera il deficit italiano o tantomeno si dà un contributo significativo alla riduzione del debito pubblico intervenendo sulle pensioni di anzianità che superano i 3.000 euro, come hai detto tu. Detto questo, c'è un problema che riguarda il riequilibrio. Noi abbiamo spalmato l'applicazione del pieno entrata in vigore del sistema contributivo della Dini su un orizzonte temporale molto più lungo dei paesi che hanno fatto riforme come le nostre, come per esempio i paesi scandinavi. Ciò malgrado, secondo me, la maggior parte degli italiani non hanno ancora capito che il tasso di sostituzione a pieno regime del sistema contributivo sarà molto più basso di quello a cui erano abituati prima, e quindi ci sarà un problema per molti di loro a sostenere il reddito disponibile. Quindi c'è la questione che dici tu, c'è anche un'altra questione, secondo me. Stefano da Brescia, come la pensa invece? Sì, pronto, buongiorno. Allora, dica. Io volevo dire questo, sento sempre parlare della spesa delle pensioni, o no? Ma scusi, le pensioni e i contributi delle pensioni non le paghiamo tutti noi dipendenti, operai o comunque anche artigiani? Tutti paghiamo, o no? Poi, per contenere le spese, iniziamo a dare un guadagno massimo alle persone. Uno non può guadagnare più di 1.000.000 all'anno, perché io per guadagnare 1.000.000 non mi basta tutta la vita, ma non è possibile. Mettiamo un limite di guadagno a tutti, e che tutti si possano vivere in questo mondo. È devono poter vivere. Vabbè, Stefano, sì, cosa facciamo? Diciamo che naturalmente il problema sono i soldi che guadagnano in più i manager, qui ci sono questioni distributive, però prima delle questioni distributive, non ne disconosco la fondatezza, c'è la questione di fondo, è come si fa a crescere, cioè crescere significa aumentare l'estensione delle fette della torta prima di decidere come dividerla, che è un'altra questione, non ne voglio negare la fondatezza, però il professor Vaciago ci ha detto qual è la strada, e la strada, capite, non è solo andare a prendere nelle tasche di chi ha, potete pensarlo ed è giusto, ma ce lo porremo dopo, il problema è lavorare tutti di più, lavorare tutti di più, pensate, le donne partecipano al mercato del lavoro italiano per il 46% rispetto al 57,8% media europea, in Germania sono al 62%, passare da quel 46% le donne che lavorano al 60% significherebbe per questo solo fatto aumentare il PIL di quasi 7 punti, naturalmente ci vuole un welfare diversamente organizzato, ci vogliono i congedi familiari, non dico obbligatori ma quasi anche per gli uomini e non con l'abbattimento in pochissimi mesi del salario come funziona. Funzionano da noi e ci vogliono magari più anche asili nido, anche aziendali. Però il problema è che in quei paesi le donne partecipando di più al lavoro fanno più PIL e fanno anche contemporaneamente più figli, perché è una balla quella che i figli e se le donne stanno a casa non fanno figli. Nei paesi in cui lavorano di più c'è un tasso di fecondità molto superiore al nostro, che resta bloccato nella componente italiana della popolazione, ce l'ha detto ieri l'Istat, all'1,39% rispetto al 2,1% che è l'equilibrio della popolazione. Bene, informazioni sulla circolazione stradale e poi torniamo con le opinioni finali di Vaciago di Pillar. Eccoci tornati in studio, professor Vaciago, c'è chi manda molte osservazioni dicendo sì, il professor Vaciago ci ha indicato tra l'altro anche l'aumento dell'aliquota IVA di 3 punti adottato in Germania per ricerca e imprese, ma in questo caso rispetto alla struttura dei consumi italiani quale sarebbe l'effetto di traslazione sui prezzi? Non è che questo aumento dell'IVA alla fine colpirebbe soprattutto i ceti più bassi che danno il più del proprio reddito disponibile ai consumi essenziali? Beh, in parte sicuramente c'è un problema di distribuzione però del reddito, però l'IVA puoi anche considerarla diversamente per tipi di beni. Non ci sono riforme che non abbiano un impatto inizialmente impopolare. Giusto, esatto. Cioè l'illusione, 8 anni degli ultimi 10 siamo stati governati da una persona che è convinta che senza l'applauso non si può far nulla. Parlo del giorno, non della notte. Bene, è un errore. Tutti i governi seri, adesso stiamo rivalutando Thatcher e Reagan, hanno rischiato una recessione nel primo anno. E l'hanno anche avuta, devo dire, tutte e due, ma poi dopo l'economia è tornata a crescere più di prima. Allora, fare solo le riforme applaudite è tempo perso, dobbiamo saperlo, non c'è possibilità di modificare la distribuzione del reddito e o l'impiego del reddito a favore della crescita, se non tirando la cinghia inizialmente. Noi abbiamo sprecato occasioni, ovviamente, che erano gli anni positivi, pensiamo quando l'economia era ripartita bene nel 2006, 2007, inizio 2008, lì erano da fare riforme che, certo, non puoi fare le riforme a favore della crescita nell'anno peggiore del dopoguerra che è stato il 2009, però adesso cosa aspettiamo? Attenzione che stiamo ancora complicando il paese, questa riforma sul federalismo verrà fuori una giungla di norme che nessun amministratore di qualunque livello, dal sindaco al presidente del consiglio, riuscirà a districarsi. Io anni fa dissi al ministro Maroni, le regalo una gomma, cancellate tutto ciò che è fuori dalla diagonale principale. Sulla diagonale principale ci sta che ogni livello di governo ha competenze e può ignorare ciò che fanno gli altri livelli di governo. Noi stiamo ancora aggrovigliando i sindaci con le province, con le regioni, con lo Stato, rendendo impossibile un'autonomia dei vari livelli di governo, che significhi come in America che Obama non ha bisogno di parlare tutti i giorni con i 50 governatori e con gli 8.000 sindaci. Sono totalmente d'accordo con il professor Vaciago ed è la grande illusione, la grande frode di questi decreti attuativi. Mi dispiace per la buona fede di Calderoli e dei leghisti che non lo hanno capito o se lo hanno capito sono ai miei occhi incomprensibili. La intricatezza delle quote parte di contributi erariali nazionali che restano rispetto a come di anno in anno è possibile soglie di variazione bassissime dei tributi propri da parte dei diversi livelli di autonomia, con il ministro che resta autonomo e isolato, individuale, titolare del potere di dire di anno in anno con un proprio decreto come comunque bisogna cambiare le cose, secondo me è totalmente diverso da quello che per 16 anni si è detto e da quello che ancora oggi la gente e soprattutto gli elettori della Lega si aspettano dal federalismo. Io arrivo quasi a sperare, ve lo dico fuori dai denti, che sui decreti attuativi, non per far cadere il governo, sto parlando di quello, non passino rispetto a quello che c'è scritto. Però questa è una mia personalissima opinione che ho passato parecchie ore a scriverci, e quando ho interrogato molti degli amministratori locali che dovranno, ho scoperto che anche ai loro occhi il loro meccanismo di attuazione e di come verranno interpretati era pressoché totalmente ignoto, un grande punto interrogativo. Mi chiedo allora come da 16 anni alla fine venga questo parto. C'è un altro ascoltatore, Alberto da Bergamo, sentiamo la sua domanda per il professor Baciago. Prego Alberto. Non c'è, caduta la linea? Allora, professor Baciago, altri mi chiedevano questo: ma se nel percorso storico degli ultimi anni l'unico vero esempio di riforme, di diminuzione del deficit è stato quando nel 92-93 abbiamo rischiato davvero di andare a gambe all'aria, c'è stata un'emergenza internazionale, l'emergenza della nostra valuta, e alla fine la politica era già molto in difficoltà per i fatti suoi, è stata praticamente messa in un angolo e sono intervenuti dei sostituti tecnici straordinari, per così dire. Ma non è che per caso nel nostro paese, poiché le riforme a breve che lei indica che hanno anche conseguenze negative, magari anche un anno di recessione, non si possono fare perché la politica italiana è così divisa e spaccata che è quello che ci divide dai governi di coalizione tedeschi, britannici, cioè c'è una specificità politica secondo lei? No, io credo che in Italia sia inevitabile, proprio per le caratteristiche della spaccatura destra-sinistra, un governo di unità nazionale che in 2 o 3 anni fa quel minimo di riforme che consentono a chi poi vince le elezioni di governare davvero. Bisogna puntare tutto sulle regole e sulla governabilità, altrimenti è inutile votare. Votare per cambiare le facce e basta è tempo perso, e molta gente oggi si domanda cosa andiamo a votare da fare. Allora, un governo di unità nazionale che si occupa delle regole, riforme costituzionali, riforme della governance del paese, chi fa cosa, ma non già fa politiche, fa le regole. Poi a regole condivise al 90% del paese si vota e si elegge un governo che per 5 anni, se Dio vuole, può fare le cose. Torniamo normali, torniamo a che la politica è qualcuno che si occupa del paese. Al momento la cosa che più mi preoccupa è che tutti gli italiani si occupano dei politici, cosa stranissima, perché dovrebbe essere la politica che si occupa degli italiani. Io sfoglio i giornali tutti i giorni e vedo cosa diciamo di chi ci governa, ma non dovrebbe essere il governo a occuparsi di noi. È su questa conclusione che io condivido il professor Baciago, dico che se, quando anche non si andasse a votare, ma quando mai ci si tornerà, se nasce un movimento, un partito che dice facciamo alla tedesca, in Costituzione limiti al deficit, azzeramento, in Costituzione limiti al prelievo fiscale, io penso sì, che quella sia una strada che destra, sinistra, non mi interessa, ma io in quel partito, se nasce, devo dire, vado a lavorarci gratis, perché sappiamo come si fa, dobbiamo imporre alla politica il dovere di farlo. Ha ragione in questo Napolitano. Appuntamento domani, linea al giornale radio.